Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. La world music non è un concetto generico, ma un genere che si basa prima di tutto sulla contaminazione. Musica pop e musica etnica si mescolano fino a confondersi, dando vita a effetti inaspettati e fortemente evocativi, come succede in molte opere di sperimentatori quali Peter Gabriel o Paul Simon. Difficile, quando non impossibile, identificare provenienze e tradizioni. Molti musicisti pop occidentali sono andati alla scoperta di suoni antichi in giro per il mondo. Molti musicisti hanno studiato e riportato alla luce il folklore dei loro luoghi. Ma la regina della world music è una soltanto e si chiama Noah. Per me i suoni non hanno confini. Prendo quello che mi piace e lo metto insieme a qualcos'altro. Non bisogna creare distinzioni nella musica, perché la musica è il collante dei popoli. Lunghissimi ricci scuri e occhi penetranti. Noah è la sintesi perfetta di quella bellezza medio orientale che in tanti, dalla letteratura al cinema, hanno raccontato. Ma se il suo viso racconta da dove viene, la sua voce parla del mondo. Energica sul palco e dolcissima nella vita, ha cantato a fianco di Sting, ha supportato Carlos Santana, si è esibita perfino per il Papa in Vaticano. La sua è una carriera costellata di successi, ma la storia personale è la stessa di tanti ebrei in cerca di identità. Comincia in Israele, nel 1969. Mi sono formata a New York, ma non potrei mai vivere lontano da Israele. Il popolo ebraico ha alle spalle una storia tormentata che ancora oggi sembra perseguitarlo. Nasce esiliato da se stesso e dagli altri, e non ha una terra nella quale riconoscersi. È per questo motivo che la comunità, da una parte all'altra del mondo, si tiene allacciata con tutte le sue forze alla sua cultura e alle sue tradizioni. Il grande problema che affligge il popolo ebraico è quello dell'identità. L'esilio forzato e l'impossibilità di raggiungere la terra promessa hanno fatto sì che questo popolo sentisse l'esigenza di unirsi in ogni modo possibile. Con l'umorismo, per esempio, riconoscibile per quel retrogusto amaro che non si ferma davanti a nessuno, neanche davanti al proprio Dio, e che mette in scena invece una relazione paritaria tra umano e divino. È anche una forma di difesa dall'antisemitismo. Prendersi in giro per primi aiuta a superare l'odio degli altri, crea una corazza. Woody Allen in questo è un grande maestro. Il secondo matrimonio di Zelig Senior si contraddistingue per i litigi continui e violenti, tanto che, sebbene la famiglia abiti sopra un bowling, è proprio dal bowling che giungono lamentele per il rumore. Da bambino, Leonard viene preso di mira dagli antisemiti. I genitori, che non prendono mai le sue difese e gli addossano sempre la colpa di tutto, parteggiano per gli antisemiti. Spesso per punizione lo rinchiudono in uno sgabuzzino al buio. Quando sono arrabbiati per davvero, entrano nello sgabuzzino con lui. Sul letto di morte, Morris Zelig dice al figlio che la vita è un incubo di dolore senza nessun senso. E l'unico consiglio che gli dà è conservare bottiglie vuote. L'umorismo, le tradizioni religiose, una cultura antica e ricchissima. E poi c'è la musica. Quella musica di cui Noah si fa portavoce dall'Europa all'America, passando per l'Asia e per l'Africa, senza mai dimenticare chi è e con la porta aperta a tutto quello che verrà. Non a caso, il suo nome significa portatrice di pace. All those preconceptions. Use your mouth for laughing and for asking and to kiss. L'amore è la fonte del mio canto, non quello delle canzonette sentimentali. No, non intendo quello. Dico un sentimento più vasto, una leva che vince tutte le resistenze e dona la serenità. Dice un proverbio israeliano che mentre Gerusalemme prega, Tel Aviv si diverte. Come in tutti i proverbi c'è un fondo di verità. La sacralità della città antica si contrappone ai ritmi vorticosi di quella nuova, con tutti i suoi locali affacciati sul mare, i grattacieli e la vita notturna che non si ferma mai. Modernissima e di recente fondazione, Tel Aviv si deve a un gruppo di residenti della vicina Jaffa, una sessantina di famiglie in tutto, che nel 1909 si sono riunite sulla spiaggia e hanno estratto a sorte il lotto di terra che sarebbe spettato a ognuna. Noa nasce il 23 giugno 1969 ed è uno scricciolo. Lo è rimasto ancora oggi, piccola, molto esile e con una grazia naturale e un sorriso che contagia. All'anagrafe il suo nome è Achinoam Nini, ma iniziano tutti a chiamarla presto soltanto con quelle tre lettere che l'avrebbero resa famosa. I suoi genitori sono ebrei yemeniti e sono stati costretti a scappare dal loro paese per via delle ostilità seguite alla proclamazione dello Stato di Israele. Con questa premessa è facile intuire come nel destino di Noa ci sia scritto il suo essere cittadina del mondo. La famiglia è il posto migliore dove trovare amore, coltivarlo e comprenderlo. Io sono molto fortunata, me ne rendo conto, perché ho una bellissima famiglia. Non solo i miei genitori, fratelli, sorelle, i miei parenti, ma anche i miei tre splendidi figli e mio marito. Sì, sono sposata con lui da più di 20 anni. È un medico. Poi la mia famiglia lavorativa, i musicisti con cui lavoro, le persone che lavorano intorno a me e che lavorano insieme da più di 20 anni. Sono diventati come una famiglia per me. È il luogo ideale per trovare amore, molto intimo. E da lì lo si può diffondere. Give me your pain, give me your sorrow, give me your loneliness and broken dreams, your bad times, your worry. Now forget. Quando Noa ha soltanto 1 anno, i suoi genitori si trasferiscono a New York perché papà, docente universitario, ha ottenuto un incarico. Lei è troppo piccola per capire la nuova città, ma si accorgerà presto che non fa per lei. Ragazzina parecchio sveglia per la sua età, a 8 anni canta già per la casa, attirando l'attenzione di amici e parenti in tutti i modi possibili, se loro sono distratti. Eccola lì, che sale in piedi sul tavolo e aspetta gli applausi con la stessa spontaneità divertita che mette oggi nei suoi concerti, quando portandosi la mano al petto chiede al pubblico se riesce a sentire la sua emozione, il suo cuore che batte. Questa città così frenetica, dove si cammina stretti l'uno all'altro ma nessuno si guarda davvero negli occhi, Noa fa fatica a capirla. C'è qualcosa nel suo DNA che le dice che il suo posto non è questo. Fantastica spesso alla finestra della sua cameretta affacciata sul Bronx, immaginandosi storie meravigliose dove i senza tetto e senza famiglia sono angeli arrivati sulla terra, mentre i suoi genitori di tanto in tanto le raccontano le vicissitudini del loro popolo eternamente migrante. È impossibile non rimanerne turbati. Si può fare finta di niente, si può scappare, cercare di dimenticare. Noa se lo chiede continuamente e non riesce a darsi risposte. Paradossalmente, dopo una tragedia immensa come quella dell'11 settembre, la gente è tornata a guardarsi in faccia. Lo so, sembra strano, ma prima camminavo per una città e non vedevo persone, ma ombre o manichini che si muovevano. Oggi posso dire che, cinicamente, la tragedia è servita per ritrovare la fratellanza. È a scuola che Noa si accorge di non veder bene. Un piccolo difetto che fa sì che quando sta imparando la W ne vede solo una. È così che è costretta a portare lenti sempre più spesse, che causano la derisione da parte dei compagni più smaliziati, da cui si difende andando avanti sempre a testa alta. Da chi abbia preso la sua inclinazione artistica non si sa. Fatto sta che Noa, con il suo sorriso sempre stampato sulle labbra, si diverte a cantare e a ballare al punto che i suoi la iscrivono alla prestigiosa scuola di Martha Graham. Piacerle le piace, ma sente che le manca qualcosa. E più il tempo passa, meno si sente a suo agio con se stessa. Dentro di sé cova l'idea, sempre più accesa, di ritornare alle sue origini, a quel luogo che le ha dato la vita, ma che non ha praticamente mai visto. I miei genitori, israeliani di nascita e yemeniti di origine, si sono trasferiti negli Stati Uniti quando avevo 1 anno. Ho vissuto fino a 17 anni a New York, dove ho studiato e ho fatto le prime esperienze artistiche. Poi mi è venuta una vera e propria crisi di identità. Voglio dire, non sapevo più chi ero, mi sentivo una straniera in America. e nello stesso tempo sentivo di non appartenere davvero alle mie radici. Il richiamo della mia terra era fortissimo. E così ho fatto le valigie e sono ritornata in Israele. Al di là dei racconti e delle fotografie, Noah appena arriva a Tel Aviv si trova in una città che non conosce per niente. C'è nata, è vero, ma è partita che aveva poco più di un anno, troppo poco per capire qualsiasi cosa. Ha voluto tornarci con tutte le sue forze, ha discusso con i genitori, ha combattuto. Però immaginava che sarebbe stato più facile, di amici non ne ha. Di parenti per fortuna qualcuno che l'accoglie a braccia aperte, dandole un posto per dormire e il conforto della famiglia. Un po' per questo e un po' per il richiamo fortissimo delle radici, che vivono in noi anche quando sono sepolte dal tempo e dagli eventi, Noah comincia lentamente a sentirsi a casa. Per me è stata una scoperta, come una rivelazione, in un momento in cui si era fatto acuto il conflitto tra la ragione e l'istinto. Stavo male, non capivo. Non ero bianca, non ero nera. Mi chiedevo continuamente chi è Achinoam Nini. Il ritorno alle origini ha sciolto il nodo. A casa mia, questo per me è Tel Aviv, ho trovato una zona di incontro delle due componenti da cui posso attingere quando creo e canto. Lì ho annullato le mie inquietudini e ho colto la più bella ricchezza del mondo, l'amore, appunto. L'amore, quello tra due persone, non quello universale, Noah l'ha trovato a 15 anni. Si chiama Asher Barek, è israeliano, ma frequenta la sua stessa high school a New York. Lo ritrova a Tel Aviv, dove ha deciso anche lui di tornare per studiare medicina, e non si lasciano più. Oggi hanno tre figli. Ho conosciuto mio marito alla high school di New York, quando avevo 15 anni, e poi ci siamo sposati. Quando diventi genitore, tutta la tua vita è messa in discussione e ricominci da capo. Ma noi siamo sempre rimasti molto uniti. Io lo chiamo ancora l'angelo dello stetoscopio rosa, e lui ride. E spesso siamo lontani, ma... siamo molto felici. La vita in Israele a metà degli anni Ottanta è fatta di infinite contraddizioni e fucili sotto il letto. Per una cresciuta a New York non è facile abituarsi, anche se è stata lei a volerlo. Ancora oggi, si sa, molti dei confini dello Stato non sono definiti. E questo ha dato vita nel corso della storia ad aspri conflitti. Quasi tutti i cittadini sono chiamati alle armi all'età di 18 anni. Il servizio militare dura 3 anni per gli uomini e 20 mesi per le donne. Anche Noah, sebbene si sia appena trasferita, non è esente. Una volta arrivata a Tel Aviv, ho proseguito gli studi. Ho prestato il servizio militare obbligatorio e con una scuola di jazz e musica classica di Tel Aviv, la Rimon School, ho completato la mia formazione, avviata alla High School di New York. Ancora oggi che il mio lavoro mi porta in giro per il mondo, vivo poco lontano da Tel Aviv e non andrei mai a stare da un'altra parte. Quando non sono in tournée, scrivo, produco, canto e faccio spettacoli. If I were a desert flower, all winter long I'd paint and cower. But spring would make me sing, my voice would ring as tiny buds begin to bloom. In spring I'd blossom and forget the winter's gloom. Quanto sta avvenendo in tutto il mondo arabo è un segnale dinamico di cambiamento e non credo che sia ancora finito. Ogni volta che qualcuno prende il suo destino nelle mani è un segnale da cogliere in modo positivo. Beh, devo dire che in particolare sono molto sorpresa dell'Egitto per il riconoscimento della pace con Israele e per il loro progressivo avvicinamento a una forma di democrazia davvero compiuta. È merito delle giovani generazioni. Ora mi piacerebbe che la stessa voglia di democrazia e partecipazione si allargasse a paesi come la Siria, in cui la situazione è devastante per la presenza di un regime tirannico, e all'Iran, dove i moti studenteschi sono sempre stati repressi con la violenza, da Ahmadinejad. Nomen omen. L'impegno è quasi una necessità per una persona con un nome che significa portatrice di pace. Noah, come tutta la sua gente, porta sulle spalle il peso di anni di conflitti e di crisi di identità. E se ne vuole fare carico perché tutto questo finisca diffondendo un messaggio d'amore. Per chi vive una realtà di forte conflitto come quella medio orientale in generale, la questione è più che mai urgente. Ecco perché i suoi testi sono da subito fortemente influenzati dal contesto israeliano, con i suoi dolori, le sue speranze, le sue contraddizioni. Fin da quando inizia a cantare in giro per i locali e le feste di Tel Aviv, Noah si distingue per come intende la musica. Non soltanto un accompagnamento, ma qualcosa che unisce le differenze. Un vero e proprio collante tra i popoli. Le mie radici sono molto importanti per me. È importante capirle, cercarle, trasmetterle ai miei figli. Ma allo stesso tempo non sono ossessionata da loro. Mi piace capire le origini di altre persone e volare come una farfalla di fiore in fiore, vedere cose diverse e luoghi diversi. Nel corso della sua carriera, il mondo ha riconosciuto a Noah il suo impegno. Ha partecipato al Live 8 di Roma, al meeting annuale United Artists for Peace ad Assisi. È ambasciatrice di Buona Volontà per la FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite. E ha ricevuto il premio Orsinus Orca per il suo impegno nella promozione del dialogo fra Israele e i paesi arabi e nel riconoscimento dei diritti delle donne in Medio Oriente. Non si ferma mai. Quello che fa portando in giro una musica energica e densa di significato non le basta ancora. Non credo che si faccia abbastanza per il riconoscimento delle minoranze e dei diritti delle donne. Personalmente partecipo sempre alle manifestazioni per le donne. Io non sono religiosa, ma sono di cultura ebraica. E mi schiero apertamente contro le posizioni della minoranza ebreo-ortodossa. La voce di Noah è unica, calda, energica, sofisticata. Altrettanto lo è la sua musica, che mescola suggestioni da tutto il mondo per portare un messaggio di pace. La sua carriera comincia in Israele, quando ha più o meno 20 anni e incomincia a cantare per le feste degli amici, che la chiamano attraverso un fitto passaparola. Così fitto che presto Noah deve controllare di avere qualche buco nel calendario. La Rimon School di Tel Aviv, appena aperta, è il posto giusto per perfezionare le conoscenze di pianoforte e chitarra. La giovane Achinoa Amnini si iscrive e non manca una lezione, certa che per l'arte e il talento non basti. A fondare l'istituto è stato un gruppo di musicisti, tra cui il primo magnifico incontro del destino di Noah. Si chiama Gil Dor. Ho quasi 20 anni in più di Noah e in quel periodo avevo molta più esperienza di lei. Però la nostra storia comune ci ha uniti e non potevo ignorare la sua straordinaria vocalità e la sua passione per la musica che la portava a imparare a suonare immediatamente ogni strumento che prendeva in mano. Anche lui israeliano di Holon, nei pressi di Tel Aviv, Gil Dor è cresciuto con due genitori pianisti amatoriali e si è appassionato da subito alla musica. Ha preso lezioni con suo fratello Yuval, ma mai avrebbe pensato di diventare un artista celebre in tutto il mondo. Il merito di certo va anche al maestro di chitarra classica, Menaseh Bakish, con il quale ha studiato per 8 anni e che gli ha dato quell'impronta inconfondibile nel modo di toccare le corde che si porta dietro anche oggi. Devo moltissimo al mio maestro. Bakish ha fatto la storia della musica israeliana e sono onorato di essere stato suo allievo. Non potrei posare amore con destino. Ai Magnifici Destini stiamo raccontando la storia di Noah, portavoce della World Music e dell'incontro con il suo primo magnifico destino, Gil Dor. Voglio cantare a me stessa, senza raccontarmi più bugie, e cercare di trovare punti di comunione tra i popoli, piuttosto che sprecare il nostro tempo a combattere. Quando ho incontrato Gil, è stato facile, perché abbiamo la stessa visione del mondo. Entrambi, Noah e Gildor, sono israeliani. Entrambi si sono spostati in America ed entrambi hanno scelto di ritornare per riappropriarsi delle loro radici. Sono sempre in giro, ma la loro casa è Tel Aviv. Nessuno dei due potrebbe vivere altrove. Se si sono riconosciuti immediatamente, è perché entrambi sentono l'urgenza di diffondere un messaggio d'amore attraverso l'energia dei suoni. 1989. Noah e Gildor si incontrano alla scuola che lui ha fondato con altri musicisti, la Rimon School of Music, dove la giovane di origine yemenita si è iscritta per perfezionare la sua tecnica. Hanno qualche anno di differenza, che significa un passato diverso. Se Noah sta muovendo i primi passi nella scena israeliana, portando sul palco i testi che ha scritto di suo pugno, lui invece è già conosciuto a livello internazionale. Ha suonato con la rockstar israeliana Shalom Anok, ha composto per il teatro e il cinema, ha accompagnato il grande chitarrista Aldi Meola nel suo tour europeo. Insomma, lui è già un cittadino del mondo. Lei, grazie a lui, lo sta per diventare. Avevo una specie di timore, di imbarazzo. Accidenti, lui è un grande. Non avrei mai pensato che mi chiedesse di suonare con lui. Gildor, folgorato dal talento di Noah, le propone di partecipare insieme al Festival Jazz di Eilat del 1991. Il successo è clamoroso ed è il via a una collaborazione che continua ancora oggi. I due scrivono insieme, compongono musica, fanno concerti in tutto il mondo e registrano album che diventano il manifesto della world music contemporanea. Per entrambi è fondamentale avvicinarsi a luoghi che non conoscono, a sonorità nuove, a persone diverse per formazione e provenienza. Ecco perché quando nel 92 gli chiedono di portare il loro spettacolo ad alcuni festival in Sicilia, Catania e Gibellina, Noah e Gildor accettano subito con entusiasmo. È l'occasione per incontrare una cultura diversa e non rifiutano mai queste opportunità. È anche l'inizio di un intenso rapporto di scambio con l'Italia. Nel 2011 ho fatto un album di canzoni napoletane intitolato Noapolis. In questo senso sto cercando le radici di altre persone, non le mie. Sono un ospite nelle culture e nelle meravigliose tradizioni di altri popoli. Già, Napoli, una città difficile, profondamente attaccata alle sue tradizioni, che ha fatto del folklore materiale da esportazione. La storia della canzone napoletana è fondativa per tutta la musica italiana, ma è anche un esempio di contaminazione, perché Napoli è il frutto di secoli di dominazioni che hanno prodotto un melting pot speciale. Naturale per un artista cosmopolita come Noah essere affascinata da questo universo di contraddizioni. La forza del mare, l'irruenza del Vesuvio che rende duro il carattere di chi ne subisce gli umori, il rapporto umano e quotidiano con la morte, la voglia e l'inclinazione a rendere teatro ogni piccolo gesto, ogni parola, proprio come Totò. Sta Napoli regina di sirene, che ci va a guardarne e ci va a volerne bene, viate che sana sana di indebbire, a porta di dopo, è già fuori. Napoli si come zucchero, terra adorabile che rarità, zucchero d'amore e femmine, io cuore Napoli che vuoi cantare. Napoli terra d'amore, sente sto cuore che devo dire, zucchero d'amore e femmine, chi è nato a Napoli ci può morire. La cultura ebraica e quella napoletana si mescolano in un vortice di dialetto, percussioni e tormento. Inspiegabilmente sembrano vicinissime. Alla voce, Noah, che incanta la platea con brani della canzone tradizionale muovendo la sua chioma riccia, alterna i tamburi presi dall'Oriente e riscoperti dal passato. Ogni concerto, un'energia nuova. Ogni volta, un incontro di popoli diversi. Ho un rapporto speciale con Napoli, con l'Italia tutta, ma con Napoli in particolare. Credo che questo popolo, sofferente, combattente e così pieno di vita, abbia molto in comune con la nostra storia. Gildor, compagno di concerti, arrangiatore e mentore di Noah, è il primo a credere in lei. Nel 94 le presenta il maestro Pat Metheny, che decide di produrre il suo primo album internazionale. Un titolo semplice, Noah, che proietta la cantante sui palcoscenici di tutto il mondo, dall'Europa al Giappone. Lei quasi non ci crede. Di fronte a migliaia di persone venute apposta ad ascoltarla e a vederla, data l'intensità delle sue esibizioni, si muove con la stessa naturalezza di quando da bambina faceva piccoli spettacolini per i genitori nel salottino di casa. È questo che ti conquista di Noah. Il suo non essere diva, pur essendo una celebrità, la sua voglia di divertirsi e di sorprendere prima di tutto se stessa, il suo approccio solare con chiunque le rivolga un sorriso. Di solito sono sempre molto concentrata sul testo e sulle emozioni che riesce a trasmettere. E cerco di dare la mia migliore interpretazione vocale cogliendo lo spirito della canzone. Quando sono sul palco non penso a come posso piacere al pubblico. Piuttosto penso a come posso toccare il cielo e a come posso onorare ogni singolo brano per il rispetto che merita. Nell'ottobre del 94, Noah è protagonista di un evento di enorme importanza mediatica, il cui senso è però anche strettamente politico. Dopo che 2 anni prima ha manifestato le sue idee, schierandosi apertamente in favore della nascita di uno Stato palestinese, adesso canta in piazza San Pietro, davanti a oltre 100.000 persone, la sua Ave Maria. È la prima cantante ebrea a esibirsi per il pontefice, e questo significa moltissimo. È l'inizio di un nuovo corso vaticano nei confronti di Israele che si traduce nella ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due stati. Effettivamente sono molto schietta sulla situazione in Medio Oriente e sono molto coinvolta nella costruzione del processo di pace, ma non uso affatto le mie canzoni come strumento di propaganda politica. Le mie canzoni sono pure. Sono le emozioni dietro i singoli avvenimenti che mi interessano di più quando scrivo i brani. È l'astratto che mi ispira, non so come dire. Ciò che ha influenzato di più di qualsiasi cosa il mio modo di comporre è stata la nascita dei miei 3 bambini. And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, mama e babbo. Los Angeles, 21 marzo 1999. Alla rinomata notte degli Oscar, un'emozionatissima Sophia Loren consegna il premio come miglior film straniero a Roberto Benigni, che ha girato La vita è bella, per raccontare l'Olocausto come se fosse spiegato a un bambino. La colonna sonora è firmata Nicola Piovani. Le parole del commovente tema principale, Beautiful That Way, le ha scritte Noah, profondamente coinvolta dalla sceneggiatura, in cui riconosce anche la sua storia di ebrea eternamente perseguitata. È stato un piacere lavorare su questo fantastico pezzo con Nicola Piovani e Roberto Benigni. Scrivere le parole è stata una vera sfida. Provare a catturare la bellezza unica e la semplicità del film e allo stesso tempo cercare di trasmettere un messaggio importante e profondo. Io e Gil Dor abbiamo lavorato in questa direzione con molta pazienza e amore. Nicola Piovani è il secondo magnifico incontro del destino di Noah. Dopo la collaborazione per La vita è bella, suoneranno insieme molte altre volte, uniti da un modo di intendere la musica e da un modo di vedere il mondo. Grazie a questo connubio raffinato e originale, Benigni vince anche il premio Oscar per la migliore colonna sonora. Se già prima la voce di Noah era famosa, adesso non c'è davvero nessuno che non l'abbia sentita. Stavo lavorando in uno studio in Francia e fui molto contenta quando Benigni stesso mi chiamò per comunicarmi che era felice per le parole del testo e per dirmi che erano stupende. Che complimento! Successivamente ho incontrato Roberto in tempi differenti e sempre con grande gioia. È una persona straordinaria. Nicola e io siamo diventati grandi amici e abbiamo collaborato in diverse altre occasioni dopo il film. È un musicista meraviglioso e un uomo sensibile e gentile. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. I magnifici destini. All of my dreams and hidden fear. If I give you everything, my crazy. Ai Magnifici Destini stiamo raccontando la storia di Noa, appassionata artista israeliana che ha fatto della musica un mezzo per avvicinare i popoli. Lei, figlia di ebrei yemeniti costretti a emigrare, conosce bene i tormenti di un popolo senza terra e si prodiga da sempre perché gli uomini smettano di combattere e facciano la pace. La musica può contribuire al cambiamento ed è accaduto già molte volte nel corso della storia. Ma oggi io penso che la musica deve avere un ruolo come parte di un sistema, una forte energia di rinnovamento che include tutti gli elementi della società, dal livello politico a quello diplomatico, fino ad arrivare ai livelli giuridici, legislativi, finanziari e anche ai singoli individui. Ogni persona e l'intera società dovrebbero sviluppare un forte senso di responsabilità, altrimenti non si arriverà mai a un cambiamento. Occhi magnetici, fisico da eterna ragazza, nonostante i 3 figli avuti dal marito pediatra con cui è sposata da più di 20 anni, e lunghi capelli ricci che le cadono sulle spalle. Noa non riesce a stare ferma un secondo quando è sul palcoscenico. Si sposta, si avvicina ai musicisti, prende dei tamburi, comincia a percuoterli, estrae vecchi strumenti recuperati dalla tradizione, balla. Con lei c'è quasi sempre Gildor, suo mentore e collaboratore fin dai tempi in cui lei, a Tel Aviv, frequentava la scuola per musicisti che lui aveva fondato. Grazie a Gildor, Noa ha portato la sua musica ovunque. Insieme sono riusciti a tenersi saldi alle loro radici ebraiche, diventando cittadini del mondo. Ma è grazie a Nicola Piovani, con il quale ha lavorato per la colonna sonora di La vita è bella di Benigni, se il mondo davvero la conosce. D'altra parte, la regina della world music con l'Italia ha un legame speciale, forse perché proprio la Sicilia è stata la prima ad accoglierla ai suoi festival o perché Napoli le ha concesso di cantare alcuni dei suoi brani tradizionali. Un privilegio che non tutti hanno e un risultato strepitoso. Io amo moltissimo l'Italia. Gli splendidi paesaggi, il mare, l'arte, la storia, l'ottimo cibo, la bella musica e soprattutto il calore della gente. Io ho diversi amici nel vostro paese e tornare in Italia per me è un po' come tornare a casa. Vido un mare quanto bello, spira tanto sentimento, come tu che tieni a mente, cascetato fai suonare. Cosa c'entra la musica con la politica? Noa sostiene moltissimo, da sempre. E la dimostrazione ce l'ha nel 2009, quando la Israel Broadcasting Authority stabilisce che rappresentare Israele a Eurovision, un popolare festival internazionale, saranno lei, ebrea israeliana, e Mira Awad, araba israeliana. La Awad è il terzo magnifico incontro del destino di Noa. Mi hanno fatto notare che Eurovision non brilla per livello artistico, ma ho risposto che non mi importa. Quel che conta per me è la mia amica Mira. E far vedere a milioni di persone nel mondo che la convivenza è l'unica strada possibile. Classe 75, cantante, attrice e autrice di canzoni. Mira Awad è abituata alla confusione di identità. Padre arabo cristiano, madre cristiana originaria della Bulgaria. Si definisce di cittadinanza israeliana, ma di nazionalità palestinese. In entrambi gli schieramenti la attaccano, in entrambi la difendono. Anche per questo il rapporto con Noa è immediatamente empatico. Per noi è tutto più difficile. Quando non sai dire davvero chi sei, tutto si complica. Ho sempre ammirato Noa e sono stata fiera di cantare con lei, con la quale condivido moltissime cose. Eurovision non è la prima occasione nella quale le due cantanti che abitano tutte e due a Tel Aviv si esibiscono insieme. Mira Awad nel 2002 ha duettato con Noa nella cover dei Beatles We Can Work It Out, che fa parte del disco Now. Era il periodo della seconda intifada e le due hanno anche cantato fianco a fianco a maggio 2008 in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario dello Stato di Israele. Eppure questa volta è diverso, ma le due se ne fregano e nonostante polemiche e critiche da ogni parte dell'opinione pubblica vanno avanti per la loro strada. But the risk of knowing that our love may soon be gone, we gotta work it out, we gotta work it out. Politica, società, diritti delle minoranze, Noah ha cercato per tutta la sua carriera di farsi carico di tutti questi temi, portando in giro un messaggio di speranza. L'hanno accusata di opportunismo, di essersi schierata troppo, di non essersi schierata abbastanza. Lei non se ne è mai curata più di tanto e ha continuato a occuparsi di tutto, sempre nel modo che voleva lei. Nel mondo moderno, del quale Israele è parte, le donne affrontano vari problemi. Penso che la fonte della maggiore parte di questi sia l'avidità. Una società che è guidata solo da avidità, denaro e ancora denaro, non può capire il valore della famiglia, dei bambini, dell'importanza di far sì che entrambi i genitori possano passare del tempo con i loro figli senza paura di perdere il proprio lavoro, eccetera. In questa società misera noi arrechiamo un gran danno alle donne, costringendole a scegliere tra la famiglia e la carriera. Donne tristi, bambini tristi, una società a pezzi e tutte le meravigliose qualità femminili che potrebbero essere più presenti nelle nostre vite, perse. Se Noah ha scelto di cantare con la sua collega Mira Awad, non è soltanto per stima e nemmeno per amicizia, c'è molto di più. Dimostrare che due donne insieme, se vogliono, possono provare a cambiare le cose e soprattutto che la musica è un linguaggio senza confini.